Medius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza, con Federico Pedrocchi e Chiara Albicocco. Benvenuti e benvenute a Mebius, che oggi è circondata da barche. Ciao Federico, siamo circondati da barche perché siamo a Genova, siamo al Salone Nautico, quindi trasmettiamo da qui, salutiamo quindi quelli che ci stanno seguendo e anche quelli che vengono a trovarci qui. Salone Nautico, quindi abbiamo deciso di dedicare la puntata sull'acqua. All'acqua, esatto. Cioè, volevamo fare qualcosa sull'acqua, poi è proprio venuta tutta sull'acqua. Esatto, e perché anche la cronaca scientifica ci ha aiutato, perché la notizia del la settimana è proprio questa, cioè l'acqua salmastra o salata, insomma, poi adesso sentiamo sul suolo di Marte. Poi introduciamo gli altri argomenti rapidamente e andiamo al nostro ospite. Allora, parleremo di una spugna prodigiosa messa a punto dall'IIT di Genova, quindi doppia coincidenza. E la spugna cosa fa? Assorbe acqua. Poi anche altro, però. E poi andremo a Venezia, la laguna, patrimonio di enorme importanza, e vediamo come possiamo prendercene cura nel migliore dei modi. Bene, partiamo. Lo abbiamo detto, insomma, la notizia della settimana, quest'acqua salata, liquida, su Marte. Chi se non l'Agenzia Spaziale Italiana può darci intanto delucidazioni su quello che è stato trovato, osservato meglio, e quello invece che succederà in futuro. Quindi diamo il benvenuto a Enrico Flamini, che è qui con noi stasera. Buonasera. Buonasera a voi. Buonasera Flamini. Lei è il coordinatore scientifico dell'Agenzia Spaziale Italiana, quindi insomma ci rivolgiamo a lei intanto se ci introduce, insomma, dal suo punto di vista molto autorevole, quelle che sono state le osservazioni, le analisi, la ricerca che è stata appena pubblicata su quello che è appunto la superficie marziana, queste striature, questi solchi, infatti, anzi. Noi abbiamo visto delle immagini, un'immagine in cui c'è un pezzo di terra di Marte bianco, però non abbiamo ben idea di qual è la dimensione. Lì che cos'è? Una scarpata di 20 centimetri o di 4-5 metri? Allora, la scarpata di per sé è 4-5 metri. La larghezza di ogni singola striatura di quelle che si vedono su Marte è dell'ordine di qualche decina di centimetri. Parliamo di affioramenti di acqua con molti sali disciolti, e quindi soprattutto della presenza di questi sali idrati per periodi limitati di tempo, che corrispondono al fatto che un po' d'acqua scorre, lascia questi sali, poi l'acqua evapora, i sali compaiono e si ripete il ciclo. E secondo me una cosa che non si è capita bene, quindi gliela dobbiamo chiedere, è che si dice questo è un fenomeno tipico anche terrestre stagionale, no? Che avviene in un certo momento dell'anno. Intanto Marte ha le stagioni come la Terra, stagioni invernali e stagioni estive. Temperatura media di Marte è molto più bassa di quella terrestre, però d'estate nelle zone equatoriali, che sono più o meno le zone in cui sono stati visti questi affioramenti, può superare lo zero, ovvero può superare il limite in cui l'acqua è ghiaccio e l'acqua si scioglie. Dopodiché, ma quindi non va mai verso l'alto? Perché la pressione di Marte è bassa. È bassissima la pressione. Facendoci un po' di conti, cosa che è stata fatta già ai tempi di Viking, si vede che il punto equilibrio dell'acqua su Marte è tale per cui per un breve intervallo di temperatura e pressione l'acqua può rimanere liquida. Ok, questo ci spiega molto. Però lei ha detto che non sale più di tanto la temperatura, invece? Ma la temperatura su Marte, adesso vado un po' a memoria, ma quelle che furono misurate da Viking e poi ripetute anche dalle altre missioni dei rover, raggiunge in qualche caso di insolazione e di condizioni molto particolari di insolazione, raggiunge i 10-15 gradi, difficilmente. Invece temperature minime che sono intorno a meno 140, meno 130, insomma. Ma supera abbondantemente meno 130 gradi, meno 100 gradi all'equatore. Con punte di meno 150 i poli. E lì la grossa novità, insomma, sono questi sali che loro hanno osservato attraverso queste immagini, la spettroscopia e così via. Ecco, allora, veniamo al punto, nel senso che adesso tocca a voi, dovete andare lì. Sappiamo che ci state adesso per tocca andare. A voi. Allora, intanto noi già ci stiamo, parlo noi di Agenzia Spaziale Italiana, e siamo da tempo, e in più in generale anche noi europei, stiamo un po' di tempo ormai osservando Marte, e lo osserviamo anche con strumenti come i nostri radar speciali, Marsis e Sharad, che sono in grado di penetrare il ghiaccio e quindi misurarne la quantità. Abbiamo misurato quanta acqua c'è nei poli, e ce n'è proprio tanta, soprattutto nel polo nord, tanto per fare un esempio: se la potessimo sciogliere tutta, tutto Marte sarebbe coperto da 8 metri di acqua, quindi ci si potrebbe anche andare in barca. Ecco. Però è troppo freddo, resta tutto intrappolato su, e per sciogliere il complesso. Quello che noi arriveremo con ExoMars, soprattutto nel 2018, quando la trivella italiana, il trapano che scende a 2 metri di profondità e andrà a osservare cosa c'è sotto il primo strato molto secco, molto arido, e a parte queste zone che sono state viste, ma mediamente arido e battuto dalle radiazioni, andrà a vedere sotto, e se ci sono lenti di ghiaccio o di permafrost, come molto più probabilmente ovvero ghiaccio più sabbia più suolo. Mm-hmm. Se fosse così, a questo punto sapremo nel futuro che potremmo andare lì, e se ci andrà un astronauta e vuole trovare l'acqua, la trova non troppo in profondità, e quindi la può usare in altri la, può, la può liberare. Okay. E sarà acqua potabile, diciamo, insomma, nel senso che potabile dopo averla filtrata, perché dopo averla... i sali che vediamo adesso, che sono più o meno gli stessi che ha visto anche la missione Phoenix, sempre della NASA, di qualche anno fa, nelle zone circumpolari, sono ricchi di sali. E quando parliamo di sali parliamo per esempio di perclorato di magnesio, quindi un sale che, come dire, non è tanto buono da mangiare. Meglio filtrare. Come minimo c'è un effetto purgativo, quindi almeno va levato. Che su Marte è meglio evitare. Senta, volevo dirle questo però, ma adesso che c'è la foto di quel posto lì, voi cercherete di andare lì? Vi precipitate lì? Purtroppo non è così semplice, perché almeno atterrare su Marte ancora non ci stanno aeroporti, non ci stanno autostrade, quindi atterrare in quel posto con le tecnologie di oggi è molto rischioso. Diciamo, noi europei non saremo in grado di farlo, perché quella che proveremo con ExoMars è una tecnologia che ancora ci obbliga ad atterrare in una zona abbastanza piatta. Forse potranno farlo gli americani nel 2020, che hanno una tecnologia che gli consente di arrivare con molta precisione e quindi magari atterrare in una zona sì piatta, ma non troppo lontano da quelle zone lì. Quello che posso anticipare è che sicuramente la missione europea del 2016 atterra dove è stato deciso, e quella di Okay. molto probabilmente. Poi è così difficile, come si dice, l'ammartamento? Lo è. È difficile perché appunto essendoci una bassissima pressione l'impatto è molto forte. Esatto, mentre diciamo sulla Terra o su un pianeta che anche come Venere, al di là delle temperature, hanno una densa atmosfera, i paracadute funzionano bene e possono rallentare molto. Certo. Marte, che ha un'atmosfera molto poco densa, il paracadute rallenta, ma non è che riesce proprio a fermare l'oggetto. Quindi si usa sempre una tecnologia di paracadute e retroraggi, che però non consente di atterrare con una precisione proprio millimetrica dove si vuole. Si atterra, diciamo, in un'area che normalmente è interno di 20-30 km dal punto ideale. E guardando proprio avanti, quando insomma sarete arrivati, avremo preso questi campioni di suolo appunto con questo strumento che avremo modo di raccontare anche in altre puntate, che cosa ci aspettiamo di trovare? Davvero magari questi sali, o la possibilità magari di qualche aminoacido, di qualche molecola, come dire, fondamentale per la vita? Beh, diciamo, noi ce l'aspettiamo, anche per questo su ExoMars 2018 c'è uno strumento che è interamente dedicato a questo, interamente dedicato a scoprire se ci sono tracce degli elementi base della vita, ovvero una catena di aminoacidi per esempio, o una catena organica più complessa. Avrà uno strumento apposito. Tanto per la storia, l'unica altra missione che ha avuto uno strumento che era stato pensato per evidenziare se c'era forme di vita era una missione Viking che atterrò nel 79, in cui tutti e due Viking avevano lo stesso strumento, uno non ha mai funzionato, si è rotto subito, e l'altro però ha dato segnali contrastanti, e soprattutto non siamo certi che fosse così sterile da non aver determinato invece la presenza di, come dire, di batteri venuti dalla Terra. Bene. Va bene, è tutto in mano vostra allora, Flamini. Congratulazioni, insomma, in bocca al lupo e ci risentiremo sicuramente in prossimità della missione l'anno prossimo. Da Marte, magari. Arrivederci, buon lavoro. Magari, buon, grazie, altrettanto. E noi andiamo sul traffico sul marziano? Sul traffico, no, su Marte c'è l'acqua, ma non le macchine, ma qui invece le macchine ci sono. Mebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza. Riprendiamo qui dal Salone Nautico di Genova questa puntata dedicata all'acqua. Federico, prima di continuare rubo 30 secondi agli ascoltatori, perché siamo qui a Genova e parlando di acqua non possiamo non raccontare che all'acquario una decina di giorni fa si è verificato un evento straordinario. È nato un cucciolo di lamantino. Allora, i lamantini, ne abbiamo già parlato qui a Mebius, sono dei mammiferi marini. Il nome scientifico è Trichecus manatus e hanno una forma bellissima, sirena. Sono degli animali straordinari, molto maestosi, grossi, ma estremamente eleganti nel nuoto. Si nutrono di vegetali e sono in pericolo di estinzione come specie. E prima di arrivare qui al salone siamo passati a trovare il cucciolo e insomma abbiamo realizzato un video molto tenero con il cucciolo che viene allattato e che nuota insieme alla sua mamma. Ecco, lo abbiamo pubblicato sul blog, quindi lo trovate se andate su www.radio24.it. In home page trovate il link per raggiungere i blog. E se vi capita davvero, venite all'acquario di Genova a vedere il cucciolo, perché è un'esperienza unica. Ora Federico, continuiamo da qui. Genova ospita anche l'Istituto Nazionale di Tecnologia ed è venuta a trovarci Greta Radaelli. Benvenuta. Buonasera. Benvenuta. Lei è ricercatrice del gruppo Materiali Intelligenti all'ITTI, appunto qui a Genova. E in apertura dicevamo che parliamo di spugne. Le spugne assorbono acqua, ovviamente, in questa puntata dedicata all'acqua, ma non solo. Tu sei qui per parlarci di spugne che assorbono olio, ma anche metalli pesanti, delle spugne intelligenti. Esatto, sì, in realtà noi partiamo da delle spugne comunissime, come quelle che utilizzate ad esempio per gli imballaggi, e le funzionalizziamo, cioè in qualche modo le rendiamo intelligenti e speciali. E questo ci permette di renderle non soltanto idrofobiche, quindi non assorbono l'acqua, e questo le permette di galleggiare, ma vengono già, anche già non è banale. Esatto, già non è banale. Non assorbono acqua. Ma in più vengono anche rese oleofiliche, significa che assorbono l'olio. Quindi se ci immaginiamo una situazione in cui c'è delle perdite d'olio in mare, per esempio, quindi l'olio galleggia sull'acqua, queste spugne galleggiando sull'acqua possono avvicinarsi alla macchia d'olio e assorbirla. Quindi possiamo utilizzarle per rimuovere e separare l'olio dall'acqua. Quindi quello che noi abbiamo detto all'inizio è esattamente il contrario. Le spugne qui sono importanti perché non assorbono l'acqua. Non assorbono l'acqua e assorbono l'olio. Esattamente. In quale situazione si possono utilizzare questo tipo appunto di spugne speciali? Sì, possiamo immaginarci qualsiasi situazione in cui ci sia dell'inquinamento delle acque, quindi in mare, nei fiumi, ma anche in situazioni industriali. In qualsiasi caso l'acqua e l'olio vengono mischiati, come sapete bisogna poi cercare di smaltirle, certo, in maniera diversa, e quindi entra in gioco la necessità di dover separare olio e acqua. Ma quindi non necessariamente in presenza di acqua, potrebbero anche essere, non so, una cisterna enorme che si rovescia, c'è dell'olio, potrebbero essere usate anche in questo modo? L'idea della spugna è, ovviamente assorbe olio, quindi diciamo l'idea di assorbire olio c'è. Anche in questo caso, diciamo, la sua applicazione più intelligente è quella, diciamo, in acqua, grazie alle sue proprietà idrofobiche, quindi al fatto, certo, che può galleggiare e rimanere in superficie. Quindi il disastro sul mare del Golfo del Messico, per esempio. Esatto, questo. Ma cosa sono? Spugnone enormi di 2 metri barriere, di diametro? Forse, no, il laboratorio noi le facciamo ovviamente piccoline. In laboratorio. Certo, l'idea è quella di creare delle spugne molto grandi. Tra l'altro queste spugne vengono rese speciali utilizzando delle nanoparticelle e quindi portano con sé tutte le proprietà di queste nanoparticelle. Per esempio noi usiamo nanoparticelle di ossido di ferro, che è magnetico, quindi queste spugne diventano magnetiche, possiamo pensare quindi di muoverle con dei deboli campi magnetici, quindi eventualmente senza neanche toccarle, quindi anche la loro movimentazione resta molto semplice. E quindi essendo intelligente, oltre all'olio possono anche assorbire altri materiali, come ad esempio appunto forse proprio per questo meccanismo possono assorbire i metalli pesanti. Sì, il meccanismo non è esattamente dovuto a quello, però sì, ci sono delle possibilità di funzionalizzare queste spugne anche per renderle diciamo assorbenti per dei metalli pesanti. E la cosa interessante è che queste spugne funzionalizzate, nel caso di presenza di metalli pesanti nell'acqua, non soltanto assorbono i metalli pesanti, ma quando lo fanno cambiano colore. Quindi questo ci permette di utilizzarle anche come degli indicatori della presenza di metalli pesanti. Detector, certo. Esattamente. Questa è un'altra cosa molto interessante che ci terrei a sottolineare, il fatto che noi abbiamo delle collaborazioni con una grossa azienda italiana di energia su questi progetti, e ne stiamo sviluppando degli altri. E una delle cose più interessanti che stiamo facendo è quella di creare, non modificare delle spugne già esistenti, ma creare delle spugne ex novo, utilizzando degli scarti vegetali, perché ci sono degli alimenti, degli scarti vegetali, esempio, per esempio il caffè, che hanno queste proprietà intrinseche di assorbire dei metalli pesanti, come può essere il piombo, il cromo, il mercurio. Quindi è possibile creare, trasformare questi scarti vegetali in una forma di spugna e renderli quindi assorbenti per i metalli pesanti, quindi diventano biocompatibili, oltre ovviamente alla funzione di separazione di metalli pesanti. Recuperiamo qualcosa che si butta via, certo. Bello, insomma, le esperienze dell'IT sono sempre interessanti, però questa davvero è molto bella, e sicuramente le applicazioni ne sentiremo parlare. Direi che sembrerebbero proprio davvero tante. Grazie a voi. Grazie. Siamo qui a Genova, al Salone Nautico, ma andiamo in un'altra grande città di mare, a Venezia, dove c'è un patrimonio di inestimabile valore, e certo tutti questi problemi di innalzamento delle acque lì dentro in questa realtà possono diventare particolarmente complessi. Abbiamo ospite Giovanni Cecconi. Buonasera Cecconi. Buonasera. Buonasera, benvenuto. Direttore del Centro Informativo Consorzio Venezia Nuova, che opera all'interno dell'arsenale, lo storico arsenale di Venezia. Voi state facendo tante ricerche che possono essere applicate anche in altre situazioni. Avete tutta un'attività di monitoraggio della laguna, nella quale c'è anche il MOSE, ma quelli che possono pensare che magari il MOSE è qualcosa, la soluzione è unica ed efficiente, sbagliano. C'è una grande attività di ricerca che voi fate. Riesce a darci rapidamente un po' il quadro di che cosa vuol dire amministrare tutta questa laguna così delicata? Allora, prima di tutto raccogliere le conoscenze e metterle in atto. Queste conoscenze riguardano i processi idraulici, morfologici, ecologici, sociali ed economici che insistono sul sistema. La principale difficoltà è relativa al fatto di conciliare in questa complessità gli aspetti tecnocratici con quelli più umanistici, in quanto una eccessiva frammentazione e settorializzazione impedisce di adattarsi e di cogliere le soluzioni più utili e convenienti. Siamo in presenza quindi di un grande laboratorio in cui, sulla base di conoscenze pregresse e di esperimenti, si è messo a punto un sistema integrato che protegge e adatta il sistema alla minaccia del cambiamento climatico, che comporta l'erosione, la perdita del paesaggio, l'allagamento di Venezia, quindi il deterioramento della città storica, la sua impossibilità di mantenersi nel tempo, con la prospettiva che queste nuove attività aiutino anche a ripopolare Venezia e quindi a mantenere e conservare l'identità dei luoghi, cioè il bene più prezioso che possiamo avere in Italia. Tra alcuni anni, nel 2018, è previsto che già il sistema MOSE entri in esercizio e quindi Venezia sarà salvata dall'acqua alte. Questo sistema però si integra. MOSE, diversamente da quanto pensiamo, non è ancora completamente attivo. Il MOSE stanno costruendo le paratoie e le prime prove sono già state fatte. Si deve completare la schiera che chiuderà completamente la laguna. Quindi per avere un effetto funzionale di protezione di Venezia bisogna attendere che sia completata anche una seconda bocca, che è quella di San Nicolò, mentre è completata la bocca di Treporti. Tanto lavoro è stato impiegato per rigenerare l'ecosistema lagunare, esatto. Cioè lavorare con la natura, imparare dalla natura per creare strutture che si adattano alla crescita del mare. Per esempio abbiamo 5 bioingegneri che, una volta stimolati, conservano il paesaggio. Le barene, che sono delle distese vegetate all'altezza della media alta marea, ogni anno crescono di almeno mezzo centimetro per contrastare la naturale subsidenza, lo sprofondamento e la perdita di materia organica di cui sono costituite. È un po' come una barriera corallina che si mantiene alla stessa quota e può crescere anche per 2 chilometri. Sì. Senta Cecconi, è un po' come quello che si è scoperto per le grandi aree su terra, le foreste anche, le aree africane per esempio, si è scoperto che la possibilità di mantenere le popolazioni all'interno di queste aree è un fattore di equilibrio delle aree stesse dal punto di vista territoriale, no? Quindi Venezia non può essere, è una cosa analoga, no? non può diventare sostenibile e anche disabitata. No, ma infatti non si tratta di controllare i flussi della popolazione come valvole di sfogo, si tratta di rigenerare il territorio affinché ci sia un'intelligenza nel suo utilizzo. E la tecnologia e la conoscenza sviluppata a Venezia sono una grande possibilità, ma anche per esportare questa capacità in altre città costiere che sono minacciate dallo stesso problema. Infatti Boston ha avuto da noi un grosso contributo perché abbiamo vinto una gara internazionale per difendere Boston al 2070, continuando a vivere sull'acqua, meglio forse di come vivono adesso sull'acqua. Va bene, allora grazie Cecconi, buon lavoro. Grazie a voi, arrivederci. La prossima settimana, continuiamo sempre restando a Venezia, la prossima settimana a Venezia c'è un grande meeting che però è indetto da un'associazione nazionale che si interessa di assicurazione, per l'esattezza ANRA, Associazione Nazionale Risk Manager, responsabile assicurazioni. Voi direte, ma com'è che c'entra con quello che abbiamo sentito? Ebbene, ecco, intanto presento il nostro ospite, Alessandro De Felice. Buonasera De Felice. Buonasera. Lei è presidente di ANRA. C'entra perché tra le attenzioni che bisogna avere per gestire in modo il più possibile sostenibile un territorio c'è anche il fatto che, insomma, siccome questi territori possono correre rischi anno da anni, bisogna creare delle condizioni di manutenzione che generino, come dire, una possibilità di assunzione di rischio da parte delle assicurazioni. Se no, beh, certo, quello che può succedere in un territorio è un patatrac tale che nessuna assicurazione potrebbe pensare poi di metterci dei soldi quando il danno è arrivato. È un po' questo, no, il senso profondo di questo meeting. Questo e non solo. Il nostro meeting in realtà è inquadrato nell'ambito del forum FERMA, che racchiude tutte le associazioni di risk management europee che sono federate, sì, per l'appunto nel FERMA. Sì, quindi rischio in generale in molte altre situazioni. Sì, certo. Sì, quindi c'entra perché anzitutto noi siamo dei gestori del rischio. Per gestire il rischio bisogna conoscerlo, bisogna poterlo analizzare, valutare, stimare e poi fra le tecniche di gestione del rischio rientra anche il finanziamento del rischio e quindi l'assicurazione. Il tema fondamentale che poniamo è proprio questo della resilienza, direi, o come è stato coniato da Nassim Taleb, dell'antifragilità, cioè l'anticipare gli effetti, in questo caso parliamo dei cambiamenti climatici e dell'innalzamento del medio del livello del mare, come anticipare questi effetti e intraprendere le azioni appropriate per mitigare i rischi ad essi connessi. Si pensi a dei rischi che non sono solo quelli del danno al patrimonio, ma hanno risvolti politici, economici, sociali. L'innalzamento del mare o la desertificazione o gli eventi di cosiddetti extreme weather, quindi piogge torrenziali o forte vento, hanno un'influenza sul territorio e quindi di riflesso hanno un'influenza sulle aziende che in quel territorio insistono, come business o come siti produttivi. Il convegno parte il 5 lunedì e ci dica dove si tiene a Venezia? Si tiene al Palazzo del Cinema e al Palazzo del Casinò, vedrà la partecipazione di circa 4.500 delegati prevalentemente da tutta Europa ma anche da altri paesi del mondo. De Felice, grazie. Magari ci sentiremo per vedere com'è andata. La ringrazio. Buon lavoro. Buon lavoro e buonasera a tutti. Abbiamo solo una manciata di secondi per salutarvi tutti. Per salutare e rinnovare il nostro appuntamento settimanale a settimana prossima. Quindi buona settimana a tutti. Qui fra 7 giorni. Arrivederci.